Buonasera a tutti, con un po' di ritardo, con un orario nuovo e inconsueto, cominciamo, abbiamo avuto qualche problemino tecnico per iniziare le trasmissioni, questa è Radio Live Session, io sono Claudio, come sempre Giangi alla parte tecnica e il programma è la storia del rock e cominciamo subito con una che ha scritto delle pietre fondamentali per quel che riguarda il rock, Janis Joplin. Una cosa che non si dovrebbe mai fare, una donna lasciata sola, Woman Left Lonely, era Janis Joplin. E continuiamo con un gruppo che sta molto molto a cuore a Giangi, si tratta dei Grand Funk, ci ascoltiamo Don't Have to Sing the Blues. We'll be right back. Y'all never been down south too much. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods in the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper, because that's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Oh, salad, Annie. Got your granny. Everybody said it was a shame, because her mama was a working on the chain gang. A mean, vicious woman. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of pork salad. Carry it home in a tote sack, old salad, Annie. You got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, because the mama wasn't working on the chain gang. A wretched, spiteful, straight razor toting woman. Lord have mercy. sock a little pork side to me. Daddy was a lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. Fresh pork salad, Annie. We just got you ready. Everybody said it was a shame, because her mama was a working on the chain gang. You suck a little pork salad to me. You know what needs a meal. Suck a little. Suck a little pork salad to me. You know what need me, you mention. Suck a little pork salad. E lasciamo Elvis per passare a Savoy Brown. Put Your Hands Together. I'm cominciamo finalmente a scaldarci e continuiamo con i 10 Years After Standing on the Crossroads. Thank you indeed, yes. Ok ragazzi, andiamo avanti e andiamo avanti con Edgar Winter, We Had a Real Good Time, cosa che auguriamo a tutti voi. Thank you. Abbandoniamo Edgar Winter e passiamo ai Cactus, che ci ricordano una cosa molto importante che spesso ci dimentichiamo: non si può giudicare un libro dalla copertina. You can't judge a book by the cover. Can't judge me, Lord. I died alone, judge me. I can't judge me. sono solo in tre, pensate se fossero qualcuno in più cosa riuscirebbero a fare. Erano i Cactus, e noi proseguiamo con la James Gang, Do It. Lasciamo la James Gang e passiamo a qualcosa di un po' più blueseggiante, i vecchissimi Fleetwood Mac, My Baby Good To Me. Thank you. good. Ah, she's so good to me. Ah, she's a so good little girl, as good as a little girl should be. Ah, she's fine. She's so good to me. Mentre salutiamo l'amico Gianni che è arrivato qua negli studi e verrà subito dopo di noi con l'Italiana Revival, abbandoniamo i Fleetwood Mac e ci andiamo a sentire un gruppo famosissimo. Si tratta dei Cream, Sunshine of Your Love. Sicuramente riconoscerete la chitarra di Eric Clapton. Tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been been waiting. Ok, mentre dietro di noi c'è Gianni che sta spingendo, insensibile ai problemini tecnici che hanno ritardato il nostro inizio di trasmissione, sta cercando di mandarci a tutti i costi via per iniziare col suo bellissimo programma di musica italiana, e noi per chiudere vi facciamo ascoltare ancora Eric Clapton. Non è vero, dice bugie. Ed Eric Clapton ce lo ascoltiamo con Further Up the Road. Su questo brano vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani, non sappiamo ancora benissimo perché ora. Un ciao da Claudio e da Gianji, buon ascolto, ciao. Guitar, Eric Clapton. Laughing pretty baby.